Brigido. Uè, Bianda! Mi ascolti, sì. Ma tu con questa antenna sempre nascosta sotto il letto, per non farti vedere, già ti ascolto, con le orecchie. La mia siamo per le freddo l'antenna, lo sai, l'antenna mia è sempre coperta. Vento, temporali e via dicendo. Non li fa neanche un baffo il vento. Ah, cappa. E forse per quello è che c'è più attaccarrata. E allora, cazzo lo sai, tutti dormiti sono oggi. La frequenza dei cosi è questa. Oh, è solo la frequenza dei burti. Sono morti e non se ne sono accorti. E allora, perché non so, sono già morti, non se ne accorgono neanche, sono già morti. Canale dei morti proprio, casa, non si è sentito anima viva oggi. Ho sentito solo a Giulio stamattina, che ero in cucina e stavo cucinando, e ho sentito addio Giulio. Io già stavo lavorando, era alle 5:30. Io non so, infatti allora... Tutto durato, sì. Cazzo, non so se devo trovare a Bucanotti, dimmi tu. Oh, no, sì. Ma non da Cici, poverino, che ha fatto un casino duro. Sono sciolto, Natali, sono sciolto, sciolto, sciolto. Sciolo, sì. Vai a affittare un po', così ti ripigli. Sì, ho fatto la mamma delle patatine fritte, 4 uova con cipolla, un po' di salata e di andare. E poi me ne vado a dormire, tanto domani sono di notte. Sì, ero manco domani a mangiare, io riposo un po'. Hai fatto bene, ma non è più soldi. Domani sono di notte perché l'altro collega ha chiamato il capo, dice che aveva paura, ha trovato due persone dentro. E tu non vivi lì al capo tuyo, che gente come te voi, senza essere armate non ce ne vogliono lì dentro di notte. Aveva ragione il tipo. Aveva ragione, sì, infatti gli ho detto, quando vedi qualcheduno, adesso appena la macchina te ne vai, non stare lì a... Cazzo va via, due ore, l'uomo ha vinguri degli uomini. Il poverino, la sarà stato poco associato, grazie. Domani mi porto il fucile a pompa io, non ti preoccupare. Ma allora, come mai la fai la notte senza paura? Cos'è la notte se ho paura? Io non ho mai avuto paura di no, ho sempre fatto la notte io. Fino adesso la mosca dal naso me la tolgo, anche se sono in due o tre. Già un gioco, se no c'è Maggiani a farci compagnia. Ehi, una con Gagone, per carità. Ragazzo, bradito, vai, si ribono in mano, li massacreggia. Ah, che non c'è il fisico, non c'è il fisico di affrontare quella gente, Natali, lascia perdere, quando era più giovane magari. E allora chiama di Emilio. Cazzo, ah, è dopo su Grini. Ero manco, si manda lì a ripilare un poco. Ero manco se riposeggiano un poco. Sì, infatti, ma un poco di tempo non furano in più, chi se poco ma sicuro, a chi mi risegarà anche io. Una mantenere Emilio Ricuri. Aspetta un attimo, Natale, arrivo subito. Io già sono qui. Così è, su che andiamo, su. Billy! Billy! Oh, yeah. Cazzo, ma sbagliato, mezzo chilo di patate, Natali! Mezzo chilo di patate fritte! E due bistecche di carne e cavallo! Sì, anda, meglio! Pittina! Senza contare le uova, Cazzo, mi devo mettere una macchina più grande, mi devo prendere, non c'entro più senza quella macchina. Tanto un pulmino mi devo comprare, Natali. Tanto oggi ce l'ha caldo, è bella giornata stamattina. Già mangiato, cari. No, adesso è 7:30, mangio io. Io ho mangiato adesso, fa un po' mezz'ora, mi suppongo a coccarmi, a un riposo, e poi domani mattina mi alzo un po' più tardi. E domani è un'altra giornata. Ma noi sono al telefono. E a te che ci vado a vedere? Oh, io sono molto orgoglioso. Sono andato nel menù e sono anche molto. C'è che è la 1-2, c'è che è la 1-2, no, sta provando. Che sta provando, che sta. Ah, qui c'è che hanno odio il microfono e te, se no mi sta cingando. Oye, triple, saludo, papà, el que le espero la 029. La 029, 029, saludito, saludito, pasará bien, voy para el 9, chao. Chaito, papá, chaito. Palo, palo, chequealo, palo. Chequealo 1-2, chequealo 1-2, palo, chequealo 1-2. No era mal, no era mal.